questo mio viso leggerai quello che il tempo ha scritto già in un giorno lontano. Aranjuez, la tua voce lenta canterà al sole, al vento ed al tempo che poi tutto porta via, questa mia storia che non dico mai, ma resta chiusa nel cuore e sugli occhi traspare, lo so, in un dolce sorriso. Sul cuore e sugli occhi traspare, lo so, in un dolce sorriso. Oh.